Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi ci introduce al mondo scintillante e affascinante della moda una grande osservatrice di questo mondo, un'osservatrice specializzata che è Alberta Marzotto, che ha pubblicato con Mondadori il libro L'abito fa il monaco, punto interrogativo, 236 pagine, 17 euro. La moda, spiega l'autrice, non è il semplice abbigliamento, ma molto di più, leggo dal suo libro, vestimento e comportamento, modo e maniera, estetica e cultura, arte e commercio. È un fenomeno complesso che abbraccia ogni aspetto della nostra vita. E per studiare questo complesso fenomeno, qui abbiamo un vero e proprio dizionario, dalla voce abbondanza fino all'ultima zone erogene, voci che ci permettono di riflettere e di cogliere molti aspetti, quasi dei veri e propri riti della vita sociale nei quali si estrinseca l'essere alla moda. Nel libro troviamo nomi di grandi stilisti, ma anche voci sul comportamento che dovrebbe essere compatibile con l'essere veramente alla moda. Un atteggiamento che è ben diverso da quello che normalmente si associa all'essere alla moda, un comportamento che nessuno può insegnare. Infatti, per esempio, la voce bon ton, la Marzotto scrive che il bon ton è grazia, leggerezza, garbo, qualità inafferrabili che con la moda di oggi hanno sovente ben poco a che fare, qualità che è difficile insegnare, aggiunge, e che men che meno si possono ridurre a un facile prontuario di regole, questo sì, quello no. Ecco, partiamo proprio da bon ton per rivolgere qualche domanda alla nostra autrice. Buongiorno ad Alberta Marzotto. Buongiorno Salvatore. Alberta Marzotto, lei nel suo libro affronta un tema, quello del bon ton, che giudica un mix fra misura e understatement, la somma di questi due valori dà vita alla discrezione, che contraddice un po' con la regola secondo la quale per essere e apparire sono un affare solo, queste sono sue parole. Ecco, dal mondo della moda, lei che è protagonista, come concilia questa regola con quello che vede appunto in quel mondo? Allora, è molto difficile perché il mondo della moda è un assoluto rispecchia quello che è il mondo in questo momento, quindi un mondo molto di apparenza, molto poco di sostanza. Ma la moda in realtà è invece c'è sostanza e rispecchia tantissime sfaccettature più profonde, questo lo spiego nel mio libro. E soprattutto io non è che voglio insegnare alla gente cosa deve fare, non è questo l'intento mio, non ho la presunzione di voler insegnare niente a nessuno, però io sono convinta che si sia perso un po' lo stile, cioè la moda e lo stile sono due cose diverse. Perché, come diceva Chanel, infatti la moda passa e lo stile resta, perché in fondo, se uno ci pensa, la moda sono vestiti, sono oggetti quindi senza anima. Lo stile è il modo in cui uno indossa questi vestiti, li vive, quindi un modo più personale, più vivo, e lo stile è un stile individuale, è unico della persona, quindi è il come uno fa vivere il vestito, quindi il vestito è vissuto dalla personalità della persona in maniera diversa. E lo stile, secondo me, in questo momento si è un po' perso, c'è un po' troppo sberluccicamento, c'è un po' troppo. Sembra sempre di stare, non so, in un reality televisivo, cioè la televisione non ci ha aiutato sicuramente nel migliorare lo stile, anzi si è perso. Infatti lei definisce lo stile una chimera, inafferrabile, cangiante, affascinante. Ecco, secondo lei oggi c'è più moda o c'è più stile? C'è più moda. Perché molte persone adesso sono convinti che lo stile sia comprare con i soldi delle griff e al posto dello stile diventa il logo che comanda. E invece non è questione di soldi lo stile, è una questione di contegno, lo stile è un modo di comportarsi, di essere, è la superficie che riflette la sostanza, è l'estetica che diventa etica, è una conquista rara, è una conquista che, cioè, uno ce l'ha o non ce l'ha lo stile, quindi è anche difficile da imparare, essere la personalità propria che è importantissimo. Poi la moda è molto, può essere abbastanza urla, lo stile sussurra, poi per esempio secondo me c'è troppa voglia di mettersi in mostra, e quindi secondo me la vera eleganza è appunto essere memorabili senza che si ricordi alcun particolare, è l'arte di non esserci pur essendoci, cioè un equilibrio molto difficile da trovare. La voce che lei dedica alla parola eleganza infatti la definisce elusiva, impalpabile, fragile. Sì, l'eleganza è praticamente abbastanza in via d'estinzione, però devo dire che essendo io una positiva, da quello che ho visto nelle ultime sfilate sia a Milano che a Parigi, mi sembra che ci sia un'inversione di tendenza nella moda, quindi vestiti molto bon ton, non ci sono più scollature, la lunghezza è al ginocchio. L'unica, la parte erogena di queste sfilate che viene fuori sono la schiena, che però appunto è antitelevisiva al massimo perché la vedi solamente da dietro, e per Armani la caviglia, quindi vuol dire che c'è un ritorno a un po' più di eleganza, ecco. Chi non fa una grande figura da questo suo libro è l'uomo. Lei lo definisce vanesio, frivolo, autocentrato, che ha fatto del culto di sé e della cura della propria beltà una forma di religione integralista. Insomma, siamo proprio, non dico dei rottami, ma dei vanesi inutili. No, non mi riferisco a tutti gli uomini in generale. Ah, meno male. A un tipo di uomo, che è questo metrosexual, che è una crasi fra metropolitano e eterosessuale, che è un uomo che esiste, anzi è in via di estinzione per fortuna, che è un narcisista, che usa le creme, che al limite si trucca anche, che si depila. Cioè è un tipo di uomo che c'è stato, per fortuna molto limitato, e che adesso pare che sia anche in via di estinzione. Sono un narcisista pazzesco, io uno così vicino non vorrei neanche morto, quindi no, non è riferito a tutti gli uomini, è una piccola categoria per fortuna. Sentiamo la reazione poi degli ascoltatori. Senta, un'ultima domanda sul rapporto tra la moda e l'Italia. Insomma, l'Italia è moda, per noi la moda è immagine, ma è soprattutto sostanze, industrie, produzione, lavoro. E come mai c'è proprio questo nesso così forte tra la moda e l'Italia? Che cosa abbiamo in più di speciale noi? Il gusto per l'eleganza, magari per lo stile? Noi abbiamo un gusto per l'eleganza, un gusto per lo stile, ma ad esempio rispetto ai francesi, che se la tirano tanto, loro vendono molto più fumo, noi siamo molto più concreti, quindi abbiamo anche un occhio quando facciamo un vestito anche alla vendibilità del vestito, e quindi al fatto che questo vestito sia indossabile e che sia comprabile, perché i francesi fanno delle bellissime sfilate, molto belle, molto divertenti, che però lo stringi, noi italiani siamo sicuramente più concreti, e questo è il nostro punto di forza. Adesso lei si occupi della vendibilità del suo libro, L'abito fa il monaco. Grazie ad Alberta Marzotto. Grazie mille a lei. Buona domenica. Uno degli accessori più difficili da indossare, sia per l'uomo che per la donna, è certamente il cappello, che spesso, dice Alberta Marzotto nel suo libro, si indossa un po' a bambera, tanto per attirare l'attenzione. Sono pochi quelli che riescono a indossarlo davvero come si deve. E allora vi propongo una storia su una mitica figura di modista che i cappelli li faceva per chi veramente li sapeva indossare. La storia è raccontata da una psicologa, Marisa Casalini Farinet, I cappelli della regina, pubblicato da Franco Angeli, 190 pagine, 22 euro. La regina è la regina Elena, che nel 1917 riceve la protagonista Maria Casalini, che è la mamma dell'autrice, per provare alcuni dei suoi modelli. Ma la stessa modista era una regina dei cappelli, su un regno che si svolgeva nell'atelier di via Monte Napoleone a Milano, e che a un certo punto avrebbe avuto anche l'occasione di trasferire a Parigi. E questo libro racconta la storia di un successo e di una conquista dura, raggiunta con molta fatica, ma anche di una storia d'amore di Maria con un ufficiale dei bersaglieri, che poi diventerà manager in una grande azienda milanese. E ne esce un ritratto insolito dell'Italia del primo Novecento, capace però di dare spazio agli entusiasmi, alle capacità che dalla provincia trovavano nelle grandi città modo di affermarsi. Un grande protagonista a questo, a noi contemporanea della moda, è Ottavio Missoni, che pubblica con Paolo Scandaletti Una vita sul filo di lana, Rizzoli 266 pagine, 17,50 euro. Quest'anno novantenne, Missoni rievoca qui la sua vita, partendo dall'amata Ragusa, in Dalmazia, quella che, scrive, esercitava un ruolo di civilizzazione tra genti di etnia, religione, lingue diverse e che ha trovato la sua vocazione più profonda proprio in questa missione. E questo legame è ancora duro, è ancora forte e Missoni lo coltiva molto efficacemente. Il grande stilista appartiene a una famiglia in vista della sua città, sarà giovane atleta, parteciperà anche alle Olimpiadi di Londra nel 1948 e verrà a Milano proprio per fare sport. Qui, dopo la guerra e la prigionia, nel campo inglese, in un campo inglese, comincerà la sua attività, che all'inizio non è quella dello stilista, ma quello di produttore di tessuti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Un personaggio di cui si è parlato molto nei giorni scorsi è Andrea Carandini, il presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, che si è dimesso per protestare contro i continui tagli alla cultura nel nostro paese. Carandini è un grande archeologo, storico dell'antica Roma e sta pubblicando in questi giorni con Rizzoli il libro Res Publica, come Bruto cacciò l'ultimo re di Roma. 194 pagine, 18,90 euro. Questo libro completa un ciclo narrativo che Carandini aveva avviato con un libro precedente in cui si parlava di re Tarquinio e del divino bastardo, la prima parte della saga dei Tarquini, come lo chiama lo stesso Carandini, che affrontava la storia della Roma arcaica. Adesso, in questo nuovo libro, si parla di Tarquinio il Superbo e di Bruto che lo caccia nel 509 a.C., dando l'avvio alla Roma repubblicana. Il saggio di Carandini si apre con una descrizione molto interessante del tipo ideale del tiranno superbo e dei demagoghi, nei quali si rintracciano gli stessi caratteri che Carandini elenca puntigliosamente citando anche Alessandro Campi. Parla di carica vitale, forza di volontà, testardaggine, risolutezza, frenesia, egocentrismo, brama di affermazione di rivalsa, magnetismo, carisma, sapienza nell'uso pubblico della propria immagine, culto di sé fino all'eroizzazione, eccetera, eccetera, eccetera, per molte righe. Con Bruto, appunto, sarebbe nata la Repubblica di Roma e questo avrebbe costituito una svolta perché, scrive Carandini, il passaggio alla Repubblica non è solo tanto un mutamento di regime, anche il passaggio dal cosmopolitismo spregiudicato, lussuoso e lussurioso dei Tarquini a uno stile di vita basato sulla severità dei padri verso i figli, sulla castità delle mogli e sulla frugalità dei magistrati. E qui abbiamo la storia di questi primi anni della storia repubblicana, che parte dall'accesso al trono di Tarquinio, che uccide nel 534 a.C. Servio Tullio, che avrebbe voluto fare lui stesso di Roma una repubblica. Tarquinio il Superbo, come sappiamo, diventerà un despota radicale, addirittura fino al punto di voler reintrodurre i sacrifici umani, un tiranno sanguinario che ascolta solo la moglie criminale e i figli perversi e forte anche di una grande capacità militare. Le vicende vengono raccontate da Carandini con uno stile narrativo quasi da cronaca di oggi. Poi lo scandalo, lo stupro di Lucrezia per opera di Sesto, il figlio più protervo e forse anche prediletto di Tarquinio, che darà il là all'insurrezione e all'instaurazione della Repubblica che ci viene raccontata qui nei primi anni, la Repubblica appunto fondata da Bruto, il primo console e progenitore dell'omonimo Bruto, che avrebbe poi ucciso Giulio Cesare quasi 500 anni dopo proprio per difendere l'idea repubblicana. Ma sentiamo queste righe sul sistema a cui Bruto aveva dato vita. Oggi la Repubblica di Roma antica è quasi dimenticata, lontana dagli affanni del nostro tempo. Che farne dunque di questa anticaglia? Serve solo per dire che i nostri valori sono diversi? Eppure la monarchia romana e la successiva repubblica sono durati oltre 6 secoli, 628 anni, se escludiamo i 68 anni della tirannia cesaristica di Servio Tullio e di quella assoluta del Superbo. Sono secoli nei quali hanno prevalso ordinamenti generati uno dall'altro, che hanno evitato sia la degenerazione tirannica, salvo rari casi, che quella democratica, temuta come un tiranno a più teste. La democrazia di Atene è durata invece non più di 3 o 4 generazioni, durante le quali quel che la folla acclamava diventava legge e questo potere assoluto dei più non ebbe limiti, per cui condusse presto alla fine di quella forma politica. Di Carandini, archeologo, ricordo altri due volumi. Uno è La casa di Augusto, dai Lupercali al Natale, pubblicato dalla Terza, 284 pagine, 10,50 €. Qui si racconta del terzo luogo più importante della Roma antica, dopo il Foro e il Campidoglio, e cioè l'area della casa di Ottaviano sul Palatino, nel lato che dà verso l'Aventino. In quell'area sarebbe poi sorta la chiesa di Santa Anastasia, quella nella quale per la prima volta Costantino avrebbe fatto celebrare il Natale il 25 dicembre del 326 d.C. Una chiesa che potrebbe essere stata eretta appunto sopra l'ingresso al Lupercale, che era il luogo sacro per i romani perché si identificava con la grotta nella quale erano stati trovati Romolo e Remo. L'altro libro di Carandini è Le case del potere nell'antica Roma, sempre pubblicato dalla Terza, 394 pagine, 28 €. Questa è una storia, ma anche una guida delle case più illustre della Roma antica. Ci sono le case di Pompeo, di Antonio, Cicerone, poi di Ottavio, di Tiberio e degli altri imperatori, perché il periodo che comprende il libro è quello tra la tarda Repubblica e il primo impero. Ma come erano fatte queste case? Sentiamolo da queste righe del libro di Carandini. La casa aristocratica tra tarda Repubblica e primo impero rappresenta l'epicentro di relazioni sociali e topografiche complesse che qualificano in un certo periodo l'identità di un quartiere. Sotterranei, primi piani e botteghe con sovrastante abitazione erano occupati da servi e liberti. Appartamenti minori ospitavano affittuari benestanti. Le case del circondario potevano essere occupate da congiunti, parenti acquisiti, amici, clienti e liberti arricchiti. Gli edifici commerciali erano spesso controllati dalla famiglia dominante in quel luogo. Gli edifici pubblici e religiosi, infine, potevano intrattenere rapporti privilegiati con la famiglia egemone del quartiere, come la Regia rifatta da Domizio Calvino o come il Tempio della Terra reintegrato dai fratelli Cicerone. Restiamo sul Palatino, ma con un libro di tutt'altro genere, un giallo dell'americano Steven Saylor, che è uno storico, giornalista, agente letterario, che torna con un poliziesco di cui il protagonista è Gordiano, un investigatore nella Roma del 50 a.C., già noto ai lettori italiani. Questa puntata si intitola Delitto sul Palatino, appunto, Nord, 350 pagine, 14,90 €, tradotto da Fabrizia Villari Gerli. Troviamo anche Cicerone in questo libro, nella sua veste di grande avvocato, a conferma della capacità dello scrittore americano di ricostruire il clima, l'ambiente e la società della Roma repubblicana. E a questo punto il confettino. Per i lettori più grandicelli segnalo di Pier Domenico Baccalario Lo spacciatore di fumetti, pubblicato da Einaudi, 246 pagine, 10 €. Questa è la storia di Sándor, che nell'Ungheria, ormai quasi alla fine del regime comunista, diffonderà germi di libertà dedicandosi alla diffusione clandestina dei fumetti. Ma perché clandestina? Perché anche i fumetti in quell'Ungheria, o almeno certi fumetti, quelli soprattutto americani come Batman e Spider-Man, potevano rivelarsi armi ideologiche temibili, come spiegano queste righe. I fumetti erano vietati in Ungheria e i professori pensavano che nessuno di noi avrebbe dovuto leggerli. Li chiamavano spazzatura, propaganda americana o questo genere di cose. Io non avevo mai davvero capito cosa significasse propaganda, ma capivo perfettamente spazzatura e non ero d'accordo. A me piacevano. E non solo a me. Per questo cercavo di leggerne il più possibile e di farli girare di nascosto tra i miei amici. Di spacciarli. E ai genitori appassionati di fumetti o di graphic novel, come si preferisce chiamarli adesso, il segnalo di Daniel Cloves, Wilson, è pubblicato da Coconino Press, 80 pagine, 17,50 €. L'autore è un cinquantenne di Chicago, di cui questo libro rappresenta la raccolta delle prime storie a fumetti non apparse a puntate. Sono strisce di una pagina che ci porta in un'America dissacrata, dove si consuma la solitudine del protagonista, peraltro capace di un monologo di particolare attualità, come questo che vi propongo. Tutti questi libri, e neanche uno su di me, sono un tipo così terribile. Che bisogno abbiamo di un altro libro su Lincoln? Portava il cilindro e liberò gli schiavi, abbiamo capito. Non c'è da stupirsi se poi le librerie chiudono. E con questo ringrazio Claudia Carusi in redazione e Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete ascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Buona domenica a tutti, arrivederci alla settimana prossima.